Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, Luca Tremolada al microfono, sono le 16.08, è tornata con noi Cristina Tagliabue, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi siamo molto lieti di ospitare in studio Rita El Kayat, antropologa, psichiatra, scrittrice. Beh, insomma, una donna che... no, quando uno la sente dice la donna perfetta, non è possibile, invece l'abbiamo avuta qui, nel senso che è incredibile. Domani parte Science for Peace, che è questa iniziativa voluta da Umberto Veronesi insieme a Kathleen Kennedy. Si parlerà tanto di diffusione di cultura per la pace, di scienza e di riduzione delle spese militari e disarmo nucleare. Noi abbiamo un testimonial d'eccezione, però andiamo a spiegare ai nostri ascoltatori chi è Rita El Kayat. Rita El Kayat è nata e cresciuta a Rabat, in Marocco. Dopo un'infanzia particolarmente difficile, in cui perde il padre a 14 anni e resta con sua madre e 5 fratelli, continua gli studi. Si laurea in medicina e diventa anche giornalista radiotelevisiva e autrice cinematografica. Poi si sposta a Parigi per specializzarsi in 3 campi della medicina: psichiatria, medicina del lavoro ed ergonomia della medicina spaziale. Durante il suo soggiorno a Parigi studia anche l'arabo presso la Scuola di Lingue Orientali e proprio in quel periodo inizia la sua attività letteraria, che conta ad oggi ben 33 libri. Recentemente le è stata assegnata la cattedra di antropologia della conoscenza e del sapere dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Chieti, in Italia. Ma tutto il mondo la conosce perché è stata la prima donna nella storia del Marocco a scrivere ad un sovrano. La lettera, scritta nel 1999, era indirizzata al giovane re Mohammed VI, a 4 mesi dalla sua incoronazione, ed era piena di richieste. La modifica della mudawana, lo statuto personale e di sorta di codice di famiglia che nei paesi arabi e islamici, ad eccezione della Tunisia, continua a mantenere le donne in una condizione di assoluta minorità giuridica. Gran parte delle sue richieste sono state accolte e Rita, non solo per questo, è stata candidata 2 volte al premio Nobel per la pace. Nel 2006 ha ricevuto la cittadinanza onoraria italiana come figura d'eccellenza che si è distinta nel nostro paese per alti meriti in campo sociale, scientifico e culturale. Rita El Kayat, allieva dell'inventore della etnopsichiatria Georges Devereux, si definisce artista con una visione universalista della vita. Una persona che vive, assorbe e poi riflette la vita attraverso i filtri imperfetti delle proprie esperienze. Allora, 33 libri, 2 volte candidata al premio Nobel per la pace. Se i nostri ascoltatori hanno domande sulla etnopsichiatria, all'824-0024, gli sms 349-238-6666. Ma magari anche domande, insomma, su come ce la si passa, no? In altri paesi che non siano l'Europa o comunque l'Occidente. Io la prima domanda che forse vorrei fare a Rita è proprio come mai ha deciso di venire qua in Italia ed essere presente in questo evento Science for Peace che comincia domani. Bonjour, merci de m'accueillir. Grazie di accogliermi. Je suis très heureuse de pouvoir parler de cet événement. Sono molto felice di poter parlare di questo avvenimento. Alors, jusqu'à aujourd'hui, la science et la paix n'ont pas été liées. Fino ad oggi la scienza e la pace non sono state legate. Au contraire, la science Al contrario, a permis des tueries énormes. Delle cose enormi. Des tueries, des massacres. Dei massacri enormi. Et aujourd'hui, justement, il s'agit de réduire. Et giustamente oggi si tratta di ridurre. Le nombre d'armes nucléaires et d'armes destructrices. Armi nucleari e distruttrici. Pour justement que la paix serve à autre chose. Affinché la pace possa servire ad altro. La paix et la science, évidemment. E la scienza, naturalmente. Pour une humanité qui serait enfin. Per una umanità che al fine possa essere. Pourrait vivre sans la guerre. E possa vivere senza guerra. Qui fait partie de toute l'histoire de l'humanité. Che fa parte di tutta la storia dell'umanità. Et ce n'est pas une utopie. E questa non è un'utopia. De penser que plus tard, justement. Pensare che più tardi. Nous arriverons à ce but que la science soit génératrice de paix. Questo obiettivo, cioè che la scienza sia generatrice di pace. Ecco, Rita tra l'altro è una grande innovatrice perché insomma basta ascoltare, come dire, la sua biografia e ci si rende conto di fatto quante cose abbia innovato all'interno del suo paese, no? E del Marocco. È incredibile, è stata la prima donna a fare un sacco di cose, cioè già prima di questa lettera, no? Di cui abbiamo ascoltato. Allora, volevo capire come ce la si passa, detto in gergalmente, così tra di noi. Come si sta? Qual è la condizione della donna oggi in Marocco? C'est un cas très spécial dans le monde arabe islamique. Un caso speciale nel mondo arabo islamico. Et justement Casablanca. E giustamente Casablanca. 7 à 8 millions d'habitants. 7 milioni e mezzo di abitanti. Qui avait 12.000 personnes début du 20e siècle. Che aveva soltanto 12.000 persone all'inizio del 20e secolo. Et la ville peut-être aujourd'hui la plus vivante du monde arabe. La città più vivace del mondo arabo islamique. E islamico. D'ailleurs, Casablanca s'appelle elle-même Naïda. Casablanca si chiama essa stessa Naïda. Naïda Naïda en France, on va expliquer ce que ça veut dire, c'est de l'arabe, ça veut dire elle s'est mise debout. Naïda, adesso ve lo spiego in arabo cosa significa in arabo, è stare in piedi. Donc nous avons à Casablanca ce qu'on a appelé en Espagne la movida. Noi abbiamo ciò che in Spagna viene chiamata la movida. Et donc cette ville maintenant est extrêmement questa città attualmente è estremamente rappresentativa de la modernité du monde arabe della musulmano. Modernità del mondo arabo e musulmano. Les femmes à Casablanca. Quindi le donne a Casablanca occupent tous les postes. Occupano tutti i ruoli, tutti i posti. Ont toutes les capacités pour faire absolument. Tutte le capacità di fare assolutamente. Ce qu'elles veulent, ce qu'elles. Ciò che loro vogliono. Comment elles veulent orienter leur vie et come comment elles peuvent étudier. La propria vita e come quale corso di studi vogliono seguire. Par exemple, les femmes pilotes marocaines, le donne pilota marocchine. En 1985, nel 1985 ont précédé les femmes suisses, les femmes espagnoles, etc. Le donne svizzere, le donne spagnole, ad esempio. Alors, mais il y a deux tendances. Però dobbiamo dire che ci sono due tendenze. Qui travaillent l'une contre l'autre. Lavorano l'una contro l'altra. Et c'est la tendance traditionnelle e la tendance moderniste. Dalla tendenza tradizionale quella modernista. Alors, on peut dire que si Casablanca. Quindi possiamo dire che se Casablanca et Naïda. E Naïda. C'est que très probablement la modernité veut gagner. Ciò che probabilmente vuole guadagnare la modernità. Et qu'elle est en train de gagner. E che è in corso di acquisirla, quindi di ottenerla e guadagnarla. On peut dire que justement les. Quindi possiamo dire les effets archaïques. Gli effetti arcaici. Sont imposés sur le Maroc de l'extérieur. Sono imposti al Marocco dall'esterno. Et donc aujourd'hui e toutes les oggi, femmes. Tutte le donne. Savent que c'est le moment. Sanno che è il momento. De garder tous leurs acquis récemment obtenus. Di guardare tutte le loro acquisizioni e quindi di andare avanti in questo senso. Et on peut dire que l'état juridique des femmes marocaines et si può dire che l'état giuridico delle donne marocchine e tunisine est le plus avancé du monde arabe musulman. È la più avanzata, la condizione delle donne marocchine e tunisine è la più avanzata del mondo arabo. E beh, questa è una bellissima notizia, vero Luca? D'altronde, insomma, mi immaginavo quante donne in Marocco lavorano oggi? Quante donne sono occupate? Se questo è, come dire, in qualche modo un simbolo di emancipazione. Possiamo dare qualche numero, magari le viene in mente qualcosa che ha letto. Ah, mais ça c'est une très très belle question parce que justement. Questa è una domanda molto bella. L'émancipation se fait par le travail. L'emancipazione si fa attraverso il lavoro, prima di tutto. Il est probable qu'une femme sur trois travaille aujourd'hui. Probabile che attualmente una donna su tre lavori. Même si ce sont des travaux dits inférieurs. Anche se sono lavori minori. Par exemple, les femmes de ménage doivent être 2 à 3 millions di casa de femmes. Sono, che fanno lavori di casa sono 2 o 3 milioni di donne. Mais le fait qu'elles gagnent de l'argent et leur. Ma il fatto che guadagnino dei soldi e quindi possano gestire la propria vita guadagnando dei soldi transforma leur famille et leurs enfants. Trasforma tanto la loro famiglia quanto i loro figli. Nous avons eu en 2007 7 femmes ministres. Abbiamo avuto 7 donne ministre. Et donc c'était le gouvernement le plus féminisé de toute l'histoire. Che era, che è stato il governo più al femminile di tutta la storia. Arabe. Arabe, ovviamente. Mais aussi en Europe, aux États-Unis, il y a très très peu de gouvernements qui ont anche in Europa e negli Stati Uniti possiamo dire che non ci siano così tanti governi che acquisiscano questa quota femminile così alta. No, infatti in Italia non mi risulta proprio che ci siano questo tipo di percentuali di quote rosa. Bisogna ricordare anche un po' di date di quando si tiene Science for Peace, mi sembra. Ma domani mattina comincia il tutto, sono due giorni, è una full immersion in realtà di ospiti italiani e internazionali, ci sono una quantità di Nobel e veramente grandi studiosi di scienze del mondo della cultura che arrivano da tutto il mondo. Vabbè, per prima è Kathleen Kennedy, no? Che porta in realtà dall'America tutto questo... Testimonial principale. Esatto, ecco, questo numero evento. Di personaggi. Non lo so, c'è tempo, posso fare un'ultima domanda? Sì, abbiamo un'ultima domanda, vai. Ecco, perché io ero molto curiosa di questa lettera che lei nel 1999 ha scritto al sovrano, no? E poi io ho letto che dopo questa lettera appunto sono accadute delle cose. Ecco, ma che cosa gli ha chiesto esattamente? Poi delle cose che gli ha chiesto, quali si sono avverate, no? Perché... Insomma, la curiosità c'è per capire. Alors, moi j'avais écrit cette lettre en ce temps-là pour une raison très simple. Io ho scritto questa lettera all'epoca per una ragione molto semplice. À l'avènement du jeune roi. E cioè alla intronizzazione di un giovane re. Les forces rétrogrades voulaient faire rentrer les femmes à la maison. Le forze retrogradi volevano far ritornare le donne a casa. Donc il fallait faire un signe très fort. Quindi c'era bisogno di un segno molto forte per evitare questo. Alors, j'ai demandé trois choses essentielles. E così ho chiesto tre cose essenziali. C'est-à-dire l'éducation, cioè, la même pour le garçon et la fille jusqu'à 16 ans. L'istruzione uguale tal quale per le bambine e i bambini. Repousser l'âge du mariage à 18 ans pour le garçon comme pour la fille. Modificare l'età del matrimonio a 18 anni tanto per il maschio quanto per la femmina. Ramener la majorité de 21 ans à 18 ans pour les deux sexes. E raccogliere la maggior parte la maggioranza per sia per il sesso femminile che per il sesso maschile a 18 ans a 18 anni et enfin donner la capacité à la femme et de se marier et de gérer son couple et d'avoir la tutelle de ses enfants en cas de divorce. E infine dare alla donna il diritto di poter gestire la vita familiare e anche quando in mancanza o in assenza del marito una volta deceduto e quindi di essere se stessa tutrice dei propri figli. Et de se marier elle-même sans un tuteur masculin. E di sposarsi essa stessa senza un tutore maschio. E com'è andata questa lettera? Tout a été accordé. Tutto è stato accordato. È andato fantastico, benissimo. Fantastico. Allora, noi ringraziamo Rita El Kayat. Ricordiamo che domani a Milano potranno incontrarla, insomma, se qualcuno vorrà andare. Auguri per l'appuntamento di domani. E voltiamo pagina, insomma, come spesso succede. Voltiamo pagina fino a un certo punto, perché continuiamo a tenere fermo la punta del compasso sulle donne. E abbiamo qui con noi Gisella Bassanini, architetto e ricercatrice, si è specializzata, no, Cristina, nel contare il tempo delle donne. Sì, perché noi donne facciamo tante più cose di voi uomini. Adesso non è per lamentarsi, sicuro, per cominciare a dire che vabbè, allora non va bene, che noi siamo multitasking, tutto, che ci dobbiamo occupare della casa e poi dei figli e poi del lavoro, che comunque non va mai bene, no? Perché mai. Qualsiasi cosa facciamo voi vi lamentate. Esatto. Ecco, qui abbiamo una studiosa che può certificare che c'è un problema alla base. E visto che facciamo tante cose, mandiamo anche in onda la scheda che ha realizzato Cristina Tagliabue su Gisella Bassanini. Gisella Bassanini, 1962, vive e lavora a Milano. Ha una figlia, Matilde, di 8 anni. Gisella è architetta e dottore di ricerca in tecnologia dell'architettura e dell'ambiente. Nella sua attività di progettista e di ricercatrice, osserva e interpreta la città e le sue trasformazioni, privilegiando un approccio partecipativo e un'ottica spazio-temporale e di genere. Docente incaricata al Politecnico di Milano, sede di Piacenza, dove insegna metodi partecipati della progettazione architettonica, è responsabile del laboratorio di ricerca Generi, Generazioni, Genti per l'architettura partecipata. Collabora alle attività di ricerca del consorzio Aster, con cui ha avuto la prima esperienza di formazione nell'ambito della ricerca nel 1990. Esperta di storia e culture dell'abitare femminile e di storia delle donne nell'architettura, ha pubblicato tra gli altri Tracce silenziose dell'abitare, la donna e la casa, Franco Angeli, 1990, la sua tesi di laurea, e nel 2008 Per amore della città, donne, partecipazione e progetto, Franco Angeli. Ha un unico grande desiderio, riuscire sempre più a star di casa nella città, ritrovare nella città la stessa familiarità, calore e protezione che avverte nella propria casa. E questo desiderio vorrebbe si realizzasse non solo per sé, ma per sua figlia e per i figli degli altri, per le altre donne e uomini, qualunque sia la loro provenienza e destino. Allora, il tema è un po' quello del tempo, mi sembra di capire. Cioè, ma perché non si conta quello degli uomini? Posso solo dire una cosa piccina? No, sbagliato. No, si conta. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. E grazie di avermi invitato. Il tempo si conta, esiste da alcuni anni una sezione proprio dell'Istat sull'uso del tempo. Che tra l'altro è il vero bene di lusso. Assolutamente, una delle risorse più... in certi luoghi del mondo, chiaramente. È una risorsa scarsa, dunque preziosa, tanto più nella, come dire, nella nostra cultura. Nel nostro mondo. Sì, si conta il tempo, ad esempio le donne italiane dedicano al lavoro domestico e familiare in media 5 ore e 20 minuti per l'attività, diciamo, di cura dei figli, della casa, dei partner, e invece gli uomini italiani 1 ora e 35 minuti. Anche questi meno, sono i dati rilevati casi. Nel 2005 dall'Istat, per le stesse attività. Gli uomini italiani impegnano molto meno tempo degli altri uomini europei, soltanto... E ad esempio sono gli uomini della Slovenia e della Svezia i più collaborativi della in casa. Slovenia, esatto. Ma la Svezia me l'aspettavo. Chi l'avrebbe mai detto? La Slovenia. Sono molto più collaborativi di noi, hanno 2 ore e 24 minuti contro appunto il nostro... Il doppio quindi. Sì, vatti a sposare un uomo sloveno, scusami se ti parlo sopra. Certo. Assolutamente. O anche svedese che non sono da buttare. Ecco. C'è anche una percentuale abbastanza alta, ora vado a memoria, non riesco a ritrovarlo... nei dati che mi sono portata con me, ma c'è una percentuale abbastanza alta di uomini italiani che invece non si occupa proprio di nulla, neanche dedica quell'ora e 20 minuti per l'attività di cura. Questo probabilmente facendo una media e non considerando l'ultime generazioni che invece... Ecco, sta cambiando qualche cosa, perché rivolto al passato questo ragionamento è verissimo, nel senso, però insomma... A me viene da pensare, non è per tanto perché io faccio da mangiare, insomma, c'ho un robot a casa che pulisce, però il tema vero, cioè io c'ho i robottini che puliscono a casa, però il tema è, credo che qualcosa stia cambiando, è un mio punto di vista personale, cioè anche l'immagine un po' stereotipata dell'uomo italiano che arriva, si siede sul divano, accende la televisione, non è... qualcosa che fa parte della letteratura, della commedia, dell'arte, mi viene da dire. Sì, adesso, concedetemi prima una battuta sempre dai dati sull'uso del tempo dell'Istat. Gli uomini sono più impegnati delle donne mediamente nella cura degli animali e nel giardinaggio. Questo è interessante, cioè hanno 20 minuti contro i 9 minuti giornalieri delle donne, per cui insomma potrebbero dire anche noi curiamo le piante, portiamo giù il cane al parco a fare la pipì e andiamo a fare la spesa al supermercato. La spazzatura, che è un classicone. O la spazzatura, no, a parte questa battuta, ma questo era un dato non inventato ma anche rilevato statisticamente, scientificamente. No, le nuove generazioni si sono assunti il carico di cura. Perché? E lo condividono. Perché, e lo condividono. È cambiato qualcosa nella cultura o semplicemente stiamo cambiando noi, insomma. Sì, state cambiando voi. Ci occupiamo di donne, anzi Cristina Tagliabue si occupa di donne, io ascolto un bambino affascinato e disciplinato, no? Ma non è vero, posso dire una cosa? No, veramente sei bravo, perché sei tollerante, tutto sommato. No, rispetto davvero alla media italiana. Io ho la solidarietà di Roberto da Vercelli, che ci ha appena scritto, in cui insomma 47 anni, ha detto insomma accidenti, anch'io lavoro, cucina, apparecchio, faccio tutto, porto la figlia a studio, sono complementare, dice alla moglie. Per cui insomma qualcosa sta cambiando, come abbiamo visto nel rapporto di Gisella, che ha scritto proprio ha preso una ricerca sul tempo dedicato alle donne. Questa ricerca in che acquario la poniamo? La poniamo nell'acquario della città fragile, perché oggi a Milano la Triennale inaugura una mostra che è stata curata da Aldo Bonomi. Tra l'altro tu fai anche una parte video in questa mostra. Esatto, io ho curato la parte video. Triennale di Milano, quindi verranno tutti a vederla. Anche perché è una mostra che si inserisce all'interno di Milano Sicura, che sono quindi delle giornate dedicate a non profit organizzate da Don Colmegna. La mostra della Triennale inaugura oggi alle ore 19, in realtà rimane aperta fin dopo Natale ed è gratuita. Ottimo. È gratuita, è una mostra gratuita e il catalogo costa anche quello pochissimo, sapevo. No. Sapevo, si stanno dicendo delle cose, sì, no, non è vero, no. Io dico tutta la verità. Io pensavo che fosse l'entrata gratuita. Comunque, adesso tema, mi informo bene. La sostanza, al di là del costo, è così. La sostanza è che Milano, le metropoli, sono delle città fragili. Perché sono psicologicamente una fragilità psicolabile, psicolabile, poi anche nel concreto, dentro e fuori, diciamo. E questa mostra vuole raccontare da una parte quindi le difficoltà di anziani oppure dei matti. Certo. Poi, aperta parentesi, chiusa parentesi, chi è normale oggigiorno nelle città. E proprio in questo acquario noi presentiamo Maddalena Fragnito, cioè dopo aver detto matti, no, abbiamo sbagliato. Buongiorno. Lei si occupa di... artista sostanzialmente. Sì, amo molto la definizione che ha dato Rita dell'artista, ovvero una persona che vive, assorbe, riflette quello che le circonda, quindi anche sottintendendo il fatto che ha avuto la possibilità di fare un lavoro su, cioè di creare un lavoro rispetto a questa cosa. E per la città fragile ho fatto a quattro mani un video di animazione con Anna Ciammitti. Di che cosa l'argomento? Abbiamo ragionato sulla fragilità e non volevamo parlare di una fragilità particolare, bensì siamo partiti da un'immagine molto semplice, ovvero se un tavolo ha una... più semplice se parla nel microfono. Se un tavolo ha un difetto... È artista, però la voce va e viene. Se un tavolo ha un difetto strutturale, prima o poi le cose che ci sono sopra cascano e si spezzano. E quindi abbiamo preferito dare, come dire, una visione dall'alto, in un certo senso sottolineare il rapporto fra l'urbanistica e i fenomeni sociali, quindi fra la struttura e la forma, insomma fra il contenitore e il contenuto. Ottimo. Quindi abbiamo creato tavoli. Un geopiano, ovvero una superficie con dei chiodi disposti a distanze fra loro tutte uguali e abbiamo lavorato con degli elastici colorati a passo 1, che è una tecnica d'animazione, rappresentando simbolicamente alcune fasi tipiche della crescita di una città. E quindi... Ma lei quante ore passa in casa a mettere a posto la casa? Meno o più di 5 ore? Glisso. Vedi, che sono tutti numeri falsi, vedi? Ah, insomma, è difficile fare testo, no? Alla fine anche gli innovatori sono quelli che cambiano un po' le cose. Qui ospitiamo sempre donne innovatrici, quindi così, insomma, mi immagino che lei le donne taglia che bue? Lei taglia bue. Io dopo un periodo tutti in cui si nascondono, no, ho provato a stirare, ma proprio sono completamente incapace, lo dico. Ma allora, cioè, stiamo parlando di un'Italia che non c'è più, questi numeri. C'è ancora. No? Prima facevo i gestacci a Tagliabue semplicemente per dire che la novità di questa mattina è che il catalogo viene dato gratuitamente, quindi non è messo. Ah, ecco. Non hai messo in anticipato vendita. La cosa. E quindi che poi la mostra chiuderà il 10 di gennaio, quindi insomma, ecco, va terza oltre. Terza donna, insomma, implicata in questa città fragile che ci sta ascoltando, Laura Aquili. Buongiorno, designer, blogger di Nova 100, scrive sulle pagine di Nova 24, che esce tutti i giovedì. Buongiorno. Ciao, vi devo dare del lei o del tu? Ci devi dare del lei, ci devi dare assolutamente del lei. Buongiorno. Allora, qual è il tuo contributo, qual è la tua metafora che porti a questa mostra? Noi semplicemente ci siamo occupati dell'allestimento, io è un uomo, lo ammetto, Erjan Alberg, ci siamo occupati della progettazione e dell'allestimento, e quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di interpretare i contenuti in chiave architettonica, per cui si parla di fragilità, per cui le fragilità per noi sono diventati dei cocci, dei frammenti di città lacerati all'interno dei quali poi video e fotografie mettono in scena proprio le fragilità da un punto di vista, da un contenuto sociale. Dalla parte opposta invece la comunità della cura l'abbiamo interpretata con un nastro continuo, come se fosse quasi un progetto di housing molto ordinato, che nel suo cammino, srotolandosi, mette in scena quello che invece le istituzioni fanno per prendersi cura delle fragilità. Ecco, Aquili, ma lei come con l'occhio del designer, insomma, la vede questa fragilità nelle città? Cioè, o è una suggestione affascinante, però insomma è un po' un intellettualismo, se mi passa il termine. No, io la vedo questa fragilità, sinceramente la vedo più che con l'occhio dell'architetto che del designer, la vedo molto negli spazi pubblici. Secondo me la città sta un po' perdendo i suoi spazi pubblici, si vive molto nel privato. Quello che a me piacerebbe è che ci fosse più attenzione invece per lo spazio pubblico, mi piacerebbe poter vivere Milano nei suoi spazi aperti, ecco posso dire. Ma è una questione semplicemente di ordine sociale o una questione di bellezza? Perché poi sono due piani completamente diversi, cioè un piano è ho paura a uscire da sola, andare nel parco. L'altro piano è quello invece è bruttissimo il parco e non vedo perché ci dovrei andare. Vabbè, ma comunque sono due cose molto connesse, no? Per cui io penso che una qualificazione, qualora uno spazio ha una sua qualità, una sua forza, automaticamente genera anche coesione sociale, no? Quello è vero. Ma voi siete sono molto collegate le cose. No, vai Cristina. Ma in realtà il sottotitolo della mostra della città fragile è: non è rinchiudendo il vicino che ci si convince del proprio buon senso, che è una frase di Dostoevsky, no? Perché questa mostra parla anche delle gated communities, cioè delle città nelle città, cioè di quelle, non so, adesso mi viene da dire quartieri tipo Milano 2, no? Sempre più belli, in cui ci si rinchiude e poi là fuori invece c'è succedono cose, eccetera eccetera. Ecco, è una mostra davvero variegata questa della città fragile, perché parla sia del caso di Abba, Biscotto Nero, attraverso un video di Pippo Del Bono che racconta i funerali, no? Di questo ragazzo nero che per un nulla alla fine, no? È stato trucidato, sia dei suicidi, insomma delle cose più tristi che a livello personale capitano, e poi di tutta, come dire, una società invece della cura, no? Che è proprio quella di cui parlava Gisella Bassanini adesso, no? In realtà le donne, ma non solo, no? Le istituzioni benefiche, i grandi mecenati, quindi non so, Tettamanzi, ecco. Ma secondo, adesso mi viene che secondo voi orrendo, però cioè, c'è una chiave di design, nel senso di ridisegno della città femminile, o è una stupidata? Sta ridendo Gisella. Sì, sto ridendo perché io che mi occupo da 20 anni di storia delle donne, di cultura delle donne, questa domanda me la sono sentita dire tantissime volte, ad esempio, ma c'è una specificità femminile nell'architettura? Secondo me non è che le donne fanno i cerchi, gli uomini quadrati, le donne mettono rosa e gli uomini mettono azzurro, adesso banalizzando, secondo questi archetipi, insomma, un po' fatti così, che hanno avuto luogo nei luoghi comuni. Cioè, le donne mettono i fiori. Io ho avuto il privilegio di conoscere la prima donna laureata in Austria nel 1918, che è Margarete Schutte-Liotzky, che è arrivata qua a Milano, che aveva 101 anni, in ciabatte, me lo ricordo, da Vienna, in treno, ed è morta a 103 anni. E lei ha raccontato di quando ha partecipato a un concorso, ancora studentessa, nel 1915, e lei ha vinto anonimo, era l'unica ragazza in un gruppo di uomini, e pensavano che il suo fosse il progetto, quello con i fiorellini e così, e il cielo azzurro, il suo e ha poi vinto. Ha vinto quello più, lei dice, geometrico, razionale, puro, quadrato. No? Quindi sfatando, però c'è una differenza che sta, c'è una differenza, sarebbe, se volete una volta possiamo discuterne, c'è una differenza nel modo di osservare i luoghi, progettarli, che, farne esperienza. Che magari è una sensibilità, o sbaglio? Che cioè... è un'attenzione diversa alle cose, ai luoghi, c'è una, la dimensione ad esempio della vita quotidiana, della la dimensione materiale, delle relazioni che avvengono nello spazio, è una sensibilità che... Perché io... tra l'altro la cosa più insopportabile, ma insomma lo dico da maschietto, è veramente pensare che ci siano dei ruoli in questa, cioè nell'arte come nell'architettura, cioè forse ci sono diverse sensibilità ed è completamente diverso l'approccio. Significa che io non ti chiamo in quanto donna, ma ti chiamo per una sensibilità che forse necessita il progetto. Non so, sto dicendo una stupidata. Sì, io penso che ci siano come degli accenti, no? Ad esempio la questione del tempo che ricordavamo prima e che nella mostra viene messo con questi dati che ricordavo prima e anche con alcune, con ad esempio con un omaggio all'esperienza delle banche del tempo che in Regione Lombardia sono tra le più vivaci. Ecco, ad esempio l'attenzione al tempo è un'attenzione proprio che le donne hanno avuto per prima. Gisella Bassanini, architetto, ricordiamo anche che è in atto insomma un lavoro sulla casa anche. Ci puoi dare qualche accenno? Io sono arrivata alla città, l'interesse per la città in questi ultimi anni, dopo aver studiato per molti anni la storia della casa, che è stata poi la mia tesi di laurea in architettura, e poi per anni ho continuato questi studi appassionata di quello che succedeva dentro alle case. In questo sono proprio un architetto anomalo, mi interessa molto di più andare a vedere cosa c'è oltre la finestra e oltre la porta che non fermarmi alla bellezza o meno di una porta o di una finestra. Oh, meraviglia! Infatti non mi amano i miei colleghi, mi considerano troppo... poco ortodossa, poco linee, più sostanza, giusto, no? Abitare la città, alla fine uscire fuori dalla finestra, forse insomma la casa come prigione o la casa come dimensione in cui stare, forse c'è troppo stretta. È interessante indagare la storia della casa. Io l'ho fatto dal Medioevo all'Ottocento, andando a vedere come via via è diventata quella che noi ancora abitiamo, che non è molto diversa da quella dell'Ottocento, ma è diversissima da quella medievale, che mi piaceva molto di più. Perché era più comunitaria, esatto, era più ricca. Certo. Dove pubblico e privato non è separato, dove famiglia e lavoro convivevano, per molti versi è quello che molti di noi fanno, vivono abitualmente, no? Parlo per me perché io però lavoro a casa. C'è un ritorno, e questo è un po'... sociologia spicciola, cioè c'è un ritorno a ambienti comuni, cioè a il gruppo di amici che magari sono single che decidono di vivere insieme, o è una una cosa abbastanza particolare solo di alcune città, solo di alcune subculture urbane? No, c'è un ritorno, che tutto il movimento del co-housing, che meriterebbe tutto un ragionamento a sé, ma c'è anche un ritorno alle stanze, diciamo, della convivialità, quello che era un tempo il salotto, lo spazio della socialità, dell'incontro col pubblico, con ciò che stava fuori, la famiglia. C'è, perché siamo forse molto stanchi di questi spazi troppo privati che ci rendono sempre più soli. Ecco, noi siamo alla fine, ringraziamo Rita El Kayat di essere stata con noi, due volte candidata a Nobel per la pace, insomma ci ha raccontato una storia interessantissima sulle donne, grazie a Cristina Tagliabue. Ringraziamo Cristina Tagliabue. Ciao a tutti. Ringraziamo Maddalena Fragnito De Giorgio, che invece sta a casa per lavorare come artista. E ringraziato anche Laura Aquili, che ci ha un po' spiegato com'è la chiave del design per le città, ma poi in realtà è poco design, è più invece sulla presenza delle persone. L'appuntamento è per domani, a domani.